Audio sounds good up here. Audio 1-2, we got you in the Great Lakes State. Natalì, tu come lo senti? No, io su Rix perché non mi sento bene, dai, mi sono venuti a tornare quella roba lì. Ciao Marco, ciao a tutti chi c'è in frequenza, vuoi dirti per me? Sì, ciao Natalia, ti capisco, io mi stanco tuttora, fino a ieri avevo capogiro che non potevo stare in piedi, dovevo andare muro a muro, una cosa così strana. Dai, sentiamo, saluta in casa e ci sentiamo in migliori connessioni. Fabrizio? Ciao Marco, puoi passare in FM? Sai che te lo stavo per chiedere? Magari in FM una bomba. Prova. Allora, vediamo, non vedo niente, senza occhiali. Sono solo in FM. 1, 2, 3, prova, vediamo un po' come vai. Che meraviglia, un bijou. Io rispetto alla M c'è un abisso, come sempre. Sì, sì, conoscevo quel Quan Sheng, tutti stanno impazzendo, ogni tanto esce un firmware nuovo, lo fanno andare sopra, sotto. I modi di emissione manco sapevano funzionassero. Insomma, è stata una rivoluzione. Però vabbè, io ho chiuso con quelle radio lì. Basta buttare i soldi poi per fare cosa? Per fare pirata in TMR, ma per carità. Hai un adattatore, adesso non so l'attacco se SMA, DNC, vabbè, non ho mai visto l'antenna. Non c'era un adattatore per mettere la 5 ottavi? Pilotaggio o per altro. Guarda, adesso forse sarà meno stato. Ecco, così è sceso il segnale, sì, come quando sei entrato. Radio non di qualità, però capibile al 100. Sì, ma cosa vuoi dire? Anche troppo. Sì, ma quello che mi stupisce è che quell'apparato possa andare in SSB col firmware adatto o hardware o quello che è, insomma. Chissà cosa ci hanno messo dentro, che chip, boh. Io non l'ho mai visto, dal vivo, né provato né niente. Quindi c'è la banda laterale, portato. Allora, se aspetti un istante, cambio apparato, che peraltro è già acceso, però è freddo. È molto freddo il 3009, quindi sicuramente non sarò centrato, però proviamo. Sì, ma è meglio che mi centri anche tu, se c'è il clarifier. Cioè, se io mi sposto in banda laterale, chiamami. Allora, 3009, però aspetta, ma io devo staccare qua. Porca miseria, attaccato, me l'avevo dimenticato attaccato. Ci sei? Provi a centrarmi, se no devo io entrare qua e cercare lo stipend a diminuire. Fabrizio, io ti sento in FM. In FM sei chiaro come prima. Allora lo faccio io, aspetta, dovrei entrare, aspetta, Ecco qua, prova a fare un passaggio lungo e prova a centrarti. Allora, Superstar 3009 col presunto 747 attaccato ancora per sbaglio, poi lo stacchiamo e vediamo se mi è centrato. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Però mi posso attenuare io, aspetta, io ho questo linea maledetto, ecco, adesso sono staccato, adesso sono, quanto sono? 12 watt, 12 watt, e prima erano centinaio, modulati, vedi se va meglio adesso. Sì, clarifier, tune, coarse, come si chiama, fine, coarse. Però il problema è che io per copiarti devo passare in FM, cioè quello sta trasmettendo apparentemente in FM. No, apparentemente, è in FM. Ho staccato tutto e sono nudo e crudo adesso, non ho niente attaccato. Che posso fare? Parlare più piano, vediamo, parlare piano lontano dal mic, adesso sono a 20 centimetri, vediamo se mi ha tenuto abbastanza. Comunque Ticopio 8 e Santiago 8, segnale al 3009 Santiago 8, e se in FM, confermo. Poi non so come funziona lì, se prima ti devi centrare ricezione, poi non lo so, da. Va bene. Allora io sono in USB, passo in FM. Allora, adesso sono in FM. 1, 2, 3, 4, 5. FM, FM, FM. Ecco, in FM sei, giusto? Conferma. E adesso mi è sparita anche l'affare della modulazione. Vabbè. E c'è da giocarci, dai. Non è che non la conosco ancora, ma c'è da giocarsi. Però comunque va un po' da tutte le parti. Cioè, praticamente devi fargli un po' di tadì. Tra software, hardware, quindi tarature interne e un po' attentativi che bisogna raggiungere lo scopo, dai. Non è così, programmi e usi, così è. No, devi calibrare un po' qualcosa, poi devi imparare a usarla, ma diciamo che nel complesso io la userò poco e niente, ma giusto per fare delle prove. Va anche troppo bene, capito? Anche troppo sta andando. Eia. Comunque confermo, Santiago 8, anche 8 e mezzo, con la modulazione, sì, 8 e mezzo, da massimo. Ah, va bene, dai. Va bene, alcuni, dai. Ci aggiorniamo, adesso riattacco l'altra radio. Eia, io passo una M, devo salutare Lupo Grigio, se già non si era andato. Va bene. Ciao Fabrizio, ciao, buona serata. Bellino quell'affare. Buona serata. Attenzione, Lupo Grigio, ci sei ancora Nicola? Attenzione Nicola Lupo Grigio, sei all'ascolto ancora? No, giustamente abbiamo fatto pinghi pongo e si è buriato. Vabbè, da, lo risentiremo. Ciao a tutti anche all'ascoltoni, ciao!